Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è stata una partita che sarebbe piaciuta a Gianni Brera. Ci ho pensato spesso ieri sera vedendola, perché ne avrebbe certamente cavato uno dei suoi articoli magistrali, uno di quelli secondo me memorabili, in cui avrebbe esaltato certamente la strenua difesa dell'Inter, magari senza spendere il sostantivo eroi, e avrebbe irriso al calcio masturbato del Barcellona. Lui le chiamava così quel genere di manovre, quel tipo di gioco. Masturbatio grillorum, scriveva, in cui sinceramente, per quel po' che ricordo di latino, non ho mai capito perché il genitivo grillorum e non il dativo grillis, no? Visto che l'espressione idiomatica che Brera traduceva nel suo latinorum per confondere un po' le acque era, sì, insomma, ai grilli e non dei grilli. Vabbè. Comunque c'erano la bellezza di 12 milioni e passa di spettatori davanti alla TV, esattamente 10 milioni e 0,35 su Rai 1 e 2.220.212, lì sono esatti i numeri, perché i decoder accesi, con il 77% di share su Sky, sommando il 34,58% di Rai 1 e il 7,7% di Sky, mi pare si arrivi al 42 fischia per cento, che è un ascolto stratosferico, assolutamente, la dice lunga sull'interesse e sul coinvolgimento che questa grande sfida ha dato. E come sempre più spesso mi accade, le osservazioni, i commenti più interessanti, più arguti, soprattutto meno faziosi, io li ho letti sulle vostre mail, anziché ascoltarli alla TV o leggerli sui giornali. Comincio da uno e poi ci sarà spazio per molti oggi, perché mi pare che ne valga la pena. Ho sempre avuto in uggia, scrive Raffaele Apostoliti, ogni forma di campanilismo sportivo e non. Per questo ogni anno sono solito scegliere accanto alla Juve, cui mi legano ricordi d'infanzia, altre squadre. Il parametro di scelta è rappresentato unicamente dagli spessori degli uomini, e quest'anno avevo scelto il Barcellona, che però gli avvenimenti degli ultimi giorni hanno messo seriamente in discussione. Non ho gradito l'idea di montare un clima d'inferno. Ho trovato infelici le sconclusionate affermazioni di Piqué. E ad ogni modo ho iniziato a seguire la partita tifando per il Barcellona, o almeno questo era quello che credevo. Perché dopo la sceneggiata di Busquets, le cadute più o meno accentuate di Messi e Socio, ho compreso solo al 90esimo e con il più vivo sconcerto di aver tifato inconsciamente Inter, cosa di cui non riuscivo a capacitarmi. Pesanti dubbi mi tormentavano. La mia solida diffidenza nei confronti dell'Inter di Moratti e di Mourinho mostrava dunque crepe. Erano sufficienti le miserie catalane a giustificare in uno juventino la soddisfazione per la qualificazione dei nerazzurri? La risposta non si è fatta attendere. È stato quando ho visto gli idranti entrare in funzione sul prato pochi istanti dopo la fine. Una carognata indegna, il cui unico scopo era quello di rovinare la festa ai vincitori e invitarli a un rapido rientro in spogliatoio, roba da terza categoria, che è stato a loro che ho avuto la certezza di fare la scelta giusta. Raffaele Apostoliti, un editoriale a parer mio. Ne ho letti pochi oggi sui giornali di questo spessore, di questo livello e di questa sintesi. Ne leggerò parecchie altre di queste mail più tardi, chiedendo scusa sin d'ora se, contrariamente alle abitudini, non riuscirò a rispondere personalmente a tutti, perché sinceramente ci vorrebbe anche il primo maggio intero, e insomma, magari ne citerò il maggior numero possibile in onda. Adesso vorrei chiamare in causa subito il ministro degli esteri Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Presente, buongiorno Gigi. Presente alle bandiere. Invidia, perché provo un sentimento di invidia, perché la lettera, la mail che hai letto tu è veramente molto molto alta, molto molto nobile, e devo dire che per fortuna neutralizza le decine e decine, ma posso anche dirti centinaia di scemenze che ho ricevuto io da ieri sera fino a pochi minuti fa attraverso la mail o attraverso Facebook. Veramente mi ha riconciliato un po' l'ascolto di questo pensiero. Sì, immagino non fossero dirette alla tua persona, ma no, alla testata, ai telecronisti della testata. Ma Gigi, t'assicuro, una roba brutta. Sì, mi sto disintossicando a passeggio in questo momento, e con te ovviamente. A passeggio con Vittoria, mi auguro. A passeggio con Vittoria. Quindi il passeggino in funzione è fantastico. Allora, per te c'è una mail, il capitolo telecronisti, per ovvie ragioni di buon gusto, lo toccherò più tardi. C'è una mail firmata, no, non è l'unica, ma ne ho scelta una. Sergio Leone da Cagliari scrive: complimenti al signor Tavelli, a sorteggi dei quarti appena effettuati, fu l'unico a pronosticare la finale Inter-Bayern. Beh, di fronte a Sergio Leone io mi inchino sempre, certo. Ma al di là della battuta... Ci voleva la colonna sonora, no? Dei suoi film, certo. Flavio Suardi doveva essere pronto in questo caso a partire con quelle musiche fantastiche di Morricone. La verità è che io ho detto Inter Bayern, ma a un certo punto ho anche pensato e scritto da qualche parte che potesse essere Inter Manchester. Ora, l'Inter l'ho presa. Diciamo che ero un po' più convinto del Manchester negli ottavi, viceversa dopo il passaggio del Bayern contro il Manchester sono andato sereno su questo pronostico, perché davvero mi sentivo che Snyder e Robben andassero a Madrid. Ci aggiungo anche Samuele Cambiasso, perché poi il destino deve essere beffardo quando lo vuole essere, certo. e sarà così, perché uno di loro alzerà la coppa davanti a Florentino Perez e questo procurerà un enorme godimento nei confronti di quelli che pensano che i soldi è bello averli e certo. Chi li ha è fortunato e bravo, ma quelli che li buttano via meritano sempre di vincere qualcosa in meno. Certo, fantastico e d'accordissimo. Adesso arriviamo al clima di Madrid, no? Perché io credo che, anzi arriviamoci subito visto che siamo a Madrid. Sì. Qualcuno erroneamente pensa che da ieri sera alle, non so, 10:40 circa l'epicentro della felicità sia Milano o sia Malpensa. Non è vero, è Madrid. Sì. È Madrid, perché hanno evitato, stamattina ho letto dei titoli spagnoli, e salva la fontana del Cibeles, cioè non ci sarà in pratica l'invasione dei barbari catalani. Sì, loro sono veramente molto molto felici. C'è una minoranza di felici anche a Barcellona, che sono i tifosi dell'Espagnol, ma sono soprattutto i madridisti ad essere soddisfatti, perché non avrebbero mai voluto, cioè preferiscono vedere Robben o Snyder che gli fa anche un gol, piuttosto che vedere Messi che magari gliele canta anche lì. Questo è sicuro. Devo anche dirti che il Real Madrid, se appena appena pensa all'occasione che ha perso, sì. Il Real Madrid è stato eliminato dal Lione, che poi ha fatto quella figura non entusiasmante contro il Bayern, cioè il Real Madrid era in una parte di tabellone favorevolissima, si è fatto buttare fuori come al solito agli ottavi, e allora devono essere contenti per il pericolo scampato, però dovrebbero guardarsi un po' a casa loro per il fatto di essere lì solo in tribuna e non in campo. Certo. Siamo già arrivati al primo intervallo, poi torniamo un attimo sul perché, voglio provare io a indovinare perché avevi detto Inter e Bayern, ricostruendo anche magari qualcuno dei nostri dialoghi passati. Adesso le strade. Io credo, Fabio, che quel pronostico buttato lì, finale Inter-Bayern, risalente appunto al dopo sorteggio dei quarti, nascesse dal fatto che erano le due squadre miracolate, nel senso che l'Inter era fuori, praticamente fuori, prima di due papere del portiere della Dinamo Kiev, e il Bayern è uscito... almeno, cioè, stava uscendo contro la Juve, era quasi uscito con la Fiorentina, tu non sapevi ancora il Manchester United, che sarebbe stato un altro passaggio miracoloso. No, cioè, c'era anche questa. Poi quando si fanno i pronostici spesso ci si ricorda quasi solo di quelli che si indovinano e non di quelli che si sbagliano, però è vero, perché le sensazioni che davano queste due squadre, l'Inter comunque di una crescita, l'Inter ha avuto la grande fortuna di trovare il CSKA nei quarti di finale, ma non dimentichiamoci che ha eliminato Chelsea e Barcellona, che sono due squadre che hanno fatto la semifinale l'anno scorso, e il Barcellona è campione in carica, quindi l'Inter è più che legittimata ad andare a Madrid, ma anche il Bayern di Monaco, perché eliminare il Manchester United, seppur perdendo la gara in trasferta, seppur usufruendo dell'infortunio di Rooney, è comunque un grande merito. Quindi la finale è una finale degnissima. Poteva non esserlo, secondo me, a livello di semifinali era abbastanza scritto, a livello di quarti era un pochino più rischioso da prendere, però insomma è successo e viva. È successo e ci poteva stare. Caro Barça, hai perso male, scrive Nando Palena da Chieti, e stavolta qualche scusa in più la dovresti all'Inter, ai suoi tifosi e agli italiani. Lei si immagina, rivolto a me, a parti invertite, che sarebbe successo e che cosa avrebbero commentato gli spagnoli, i commentatori italiani, quelli specialisti in autofustigazione a comportamenti invertiti da parte del pubblico e di tutto il resto? Direi che ci sta questa osservazione. Ma ci sta perfettamente. Io ho trovato meravigliosa la tua apertura breriana oggi. Grazie, ma è merito di Brera. No, certo, infatti ho detto breriana. Ma sinceramente ieri a me, ma anche all'andata, è sembrato di vedere... non so, una partita di tennis con il maestro dall'altra parte, cioè sì. giocatore che è perfetto nei movimenti, fa tutte le cose bene ma non affonda mai, oppure di vedere sciare un maestro di tennis, le linee perfette ma nient'altro. Cioè, Barcellona ieri ha cercato di sfidare una legge sacra, cioè di fare gol senza tirare in porta. Certo. Perché io sono andato a vedere le statistiche stamattina, possesso di palla 82%, tiri in porta 1. Sì, sì. E allora vuol dire che siamo oltre la masturbazio, cioè siamo a adesso andiamoci piano, Sì, andiamoci, sì, piano, esatto. Ma tanto Vittoria dorme. Vittoria dorme, e credo non abbia ancora intuito sufficiente. Siamo a 7-8 mesi, no, mi pare, quindi... 7. Sai, una notazione, io pesco queste mail perché, ti ripeto, sono delle miniere. La prima era, secondo me, il migliore in campo di oggi, ma anche questa non è male. Andrea Dolci, tra l'altro questo è un cliente in senso buono, nel senso che è un corrispondente periodico. Da milanista puro sangue, credo di aver rivisto nel Barça tutti i limiti di un certo Milan. Senti che bella questa frase: calciatori da piede raffinato, lampi di gioco, ieri più sperati che visti, ma la incapacità assoluta di adattarsi alla partita, il tutto declinato, leggo pochi articoli così sui giornali di oggi, il tutto declinato in un possesso palla di una imbarazzante sterilità, non appena viene meno il dinamismo complessivo della parte alta della squadra. Ieri sera vedevo Zambrotta che la dà a Gattuso, che la passa a Pirlo, che la gira ad Ambrosini, che la passa a Ronaldinho, il quale si avvita e la ridà ad Ambrosini, che la rigira a Pirlo, la ripassa a Zambrotta, la gira a Seedorf, che la passa a Pirlo, e chi difende sta lì a controllare 60 minuti. Vedo un milanista al di là dal vetro che sta annuendo vigorosamente, 60 minuti in 10 senza un minimo accenno di crampi. È un complimento al preparatore dell'Inter, ma la dice anche lunga su quanto il Barça abbia realmente impegnato i nerazzurri. Conclude Andrea Dolci dicendo: il Barça può raggiungere la perfezione a patto di cambiare quella specie di inutile pilone della luce svedese che sta al calcio manovrato come Ronaldinho a un raduno di mezzofondisti, e di mandare Guardiola un po' a lezione da Fabio Capello. Con un po' di cinismo e di umiltà questo Barça potrebbe essere veramente perfetto e forse al limite dell'imbattibile. Capisci che razza di editorialisti abbiamo noi da Tempo di Sport, Fabio? No, allora, due cose. Intanto il Barça lo era l'anno scorso, poi ha trovato il tempo e il modo di pagare dei soldi per dare via Eto'o, certo. E questo gli sta bene, onestamente gli sta bene. Scendo un po' di livello, gli sta bene. Non è giusto. E la seconda è che questo ci costringe, Gigi, nelle nostre conversazioni ad essere sempre più alti, perché il livello dei tuoi ascoltatori, ma lo sapevo, ovviamente. Quelli che scrivono, più che quelli. Adesso vediamo le telefonate poi per rientrare in media, perché c'è sempre quella opzione. Senti, invece questo è un SMS appena arrivato. Tiziana, l'amico di poco fa, non era l'unico juventino a tifare Inter. Io me ne sono reso conto quando a pochi minuti dalla fine io juventina urlavo fischia fischia e mio padre interista mi guardava come se fossi pazza. Questa si chiama Tiziana. Beh, questo è molto bello. Devo dire che il tifoso neutrale ieri il tifoso neutrale tendenzialmente, se non ha particolari livori nei confronti di una squadra, si schiera per l'underdog, per il debole, e ieri il debole era l'Inter, proprio perché l'Inter ha scelto di giocare questa gara. Cioè, se il Barcellona avesse fatto due gol, diciamo, entro un tempo ragionevole, l'Inter non avrebbe mai, soprattutto in 10, potuto cercare di fare il gol che avrebbe riaperto. L'Inter ha scelto questa gara di contenimento ed è stata premiata. Due velocissimi argomenti ancora. Uno è quello che riguarda i coefficienti UEFA. Mi pare, no, mi pare niente, perché i calcoli sono troppo complicati, li giro a te. No, allora, ovviamente è molto importante la partita tra Hamburgo e Fulham di questa sera. Si giocano le due semifinali di Europa League e l'Hamburgo ha la possibilità, ma gioca a Craven Cottage dopo lo 0-0 dell'andata, passando di fatto togliere un posto alle italiane nella stagione prossima, non questa che arriva, quella dopo. E questo costringerà o costringerebbe le società che mirano al terzo o quarto posto a rinforzarsi ancora di più, perché il quarto posto non sarebbe più utile l'anno prossimo, nel prossimo campionato, per la Champions League. Ovviamente il tifo del calcio italiano questa sera è per il Fulham. Nel caso in cui dovesse passare il Fulham, però attenzione, perché diventerà sarà decisiva la gara del Bernabeu tra Inter e Bayern di Monaco, perché a quel punto il coefficiente sarà quasi pari e i tedeschi potrebbero superarci solo nel caso di vittoria del Bayern contro l'Inter. Se invece l'Amburgo va in finale e gioca la finale tra l'altro in casa, è matematico che l'Italia perderà una squadra nella Champions League, non quella prossima ma 2011-2012. Esattamente, piccolissima notazione di 5 secondi, tutti continuiamo a parlare della Champions League, non dimentichiamoci che la Germania ci ha recuperato, o meglio noi come calcitano abbiamo perso molto per la figura poco degna delle nostre squadre in Europa League, perché certo. Non dimentichiamoci mai che in Europa League noi non ci accorgevamo perché le nostre andavano fuori subito, ma gli altri andavano avanti e i punticini piano piano salivano. Contano anche lì. Notazione di chiusura, di proiezione sul fine settimana e oltre, perché vabbè, poi avremo tempo con gli ascoltatori di parlare degli impegni dell'Inter, quelli di campionato eccetera, ma ho visto per esempio che il Barcellona ha due turni, cioè che in Spagna si giocano di nuovo due turni consecutivi, sabato e martedì, e quindi il Barça, dopo sta legnata del mercoledì sera, va mi pare a Villarreal sabato sera e poi ha una partita in casa di nuovo martedì, e a sto punto oltre alla remontada, no, che non è riuscita, mi sembra che ne rischi un'altra. Rischiano forte, perché la partita col Villarreal è una partita pericolosissima. Devo dirti che nel fine settimana mi aspetto un verdetto sicuro in Premier League, perché ci sarà Liverpool-Chelsea. Certo. Credo che il Bayern di Monaco potrebbe vincere il titolo a pari merito, cioè vincerlo per differenza reti, perché ha due partite non difficilissime con Bochum ed Hertha Berlino. Viceversa lo Schalke 04 deve giocare contro il Werder Bremen, che comunque è un avversario di livello superiore. Ovviamente poi c'è il campionato italiano. È evidente che il Barcellona dai 6 titoli quest'anno potrebbe trovarsi 0 titoli, perché la Champions League apriva la Coppa Intercontinentale e la Supercoppa Europea, e sono cose chiuse. Tutti i traguardi aperti per l'Inter può fare 6 titoli quest'anno. Il Barcellona, se non vince la Liga, rischia davvero di fare gli 0 titoli, perché poi la Liga le aprirebbe all'ipotesi anche della Supercoppa di Lega Spagnola. Cioè, stiamo parlando di niente naturalmente, però rischiano, però. E tanto anche. Grazie Fabio. A voi buona giornata. Un bacio alla piccina e la linea a Pino, che ha chiamato da Brescia. Buongiorno. Buongiorno Galazzini, complimenti. Ascolti, sono troppo contento. Troppi anni che aspettavamo sto giorno, Dafina. Oddio, non è ancora detto l'ultima. Però a Madrid ci siamo. Ascolti, cosa ne pensa lei di quel far play, del famoso far play dei catalani, così decantato all'aria, e poi invece alla resa dei conti si è dimostrata. Mi sembra che il far play ha ceduto ieri sera, ma non solo ieri sera, ha cominciato a cedere già nei giorni scorsi, e alla fine gli si è ritorto contro. Sto parlando del fuoricampo, perché devo dire che in campo si è visto molto di peggio di quello che hanno fatto i catalani ieri sera. Poi magari ne parliamo più avanti. Bella questo messaggio. Dunque, 82%, davvero un modo di dire. Non ho visto la partita, scrive Roberto. Sì, 82%. Il dato ufficiale di possesso palla è 82% Barcellona e 18 Inter, che è addirittura sbalorditivo, forse è un record mondiale. Ma è un record mondiale di masturbarsi, appunto, come avrebbe detto Brera. Luca da Milano, infatti, scrive, commenta subito, dice: ieri abbiamo avuto un'altra prova che il dato del possesso palla è una cosa vana. Luca, questo è un mio vecchio cavallo di battaglia. Pensi che fino a ieri, mi è capitato spesso anche in radio di dirlo, oltre che di scriverlo un po' dappertutto, che se c'è un dato non significativo nel calcio è proprio quello del possesso palla. È significativo come curiosità, come elemento che aiuta a denotare le caratteristiche di una squadra e dell'altra. Ma io fino a ieri, quando sentivo possessi palla percentuali strepitosi, ho sempre detto che l'Inter di Herrera, con il 20-30% in media, no, di possesso palla nelle grandi sfide, le partite le vinceva, se non tutte, quasi tutte. Beh, da ieri sera devo aggiornare questa frase, perché non è soltanto l'Inter di Herrera, è anche l'Inter di Mourinho, che con il 18% di possesso palla è vero che perde la partita, però porta a casa la qualificazione. Si tenga conto, scrive Guido da Varese, anche dei telespettatori di Mediaset Premium e di chi come me ha seguito dall'Italia la partita, ma sulla televisione della Svizzera italiana. Quindi il conto sale ancora. Io prima ho dato i numeri che sono stati comunicati all'ANSA, questi numeri non ci sono e quindi mi sono fermato a quei 12,2 fischia tra Rai e Sky. Il possesso palla è la tattica più efficace in assoluto, puntini di sospensione, per difendersi, scrive Davide Pezzetti da Mantova, non certo per attaccare. Più passaggi servono per arrivare al tiro, più tempo alla difesa per schierarsi. Difatti uno dei padri del possesso Italia, del possesso palla in Italia era Lidl, che aveva finché palla abbiamo noi, palla non hanno altri. Questa era la sua filosofia di partenza. Poi è vero anche che il Barcellona ha sbagliato serata, probabilmente ha sbagliato periodo, perché il possesso palla del Barcellona in genere è più veloce del 20-30%, che è esattamente quello che ieri sera gli è mancato. Vincenzo da Como domanda: ma se abbiamo una squadra italiana in finale di Coppa Campioni, dobbiamo essere fiduciosi per i prossimi mondiali? Credo che sia ironica questa domanda, nel senso che non essendoci uno straccio di italiano in campo non vedo che c'entri. Poi c'è tutto il capitolo telecronaca e telecronisti. Tra poco, prima Antonio da Milano, buongiorno. Dica. Volevo anticipare un po' la rubrica dei ricordi, anche per giustificare un po' questo entusiasmo che abbiamo visto ieri, che magari sembra esagerato. Però mi ricordo che avevo 9 anni quando ho visto l'ultima semifinale, anzi l'ho sentita molto probabilmente alla radio, Inter-Celtic 0-0, 0-0 ritorno, calci di rigore, puoi immaginare cosa sono i calci di rigore sentiti alla radio. Vinciamo i calci di rigore 5-4, andiamo in finale con l'Ajax, il grande Ajax. E dovetti convincere mia zia a non mandarmi a letto dopo la fine del primo tempo 0-0, dice: ma chissà quanto mai rivedrò un'altra finale di Champions League con l'Inter. Infatti era stato un buon profeta, visto che sono passati 38 anni. Dunque, che pena il signor Caressa, scrive Luca Migliori da Vignola, provincia di Modena. Si erge a paladino della moralità non appena si accorge della sceneggiata di Busquet. Ma è lo stesso Caressa che invece esaltò la sceneggiata di Materazzi dopo la famosa testata di Zidane ai mondiali. Dopo 11 minuti su Sky, scrive Nicolecini, abbiamo già sentito che i giocatori del Barcellona sono antisportivi, che Messi ha fatto un fallo inutile e cattivo, che Ibrahimovic è una carogna di giocatore, e quindi io sfumo l'audio e accendo la radio. Ho visto come tanti Barça Inter su Sky, scrive Marco Baronti da Montopoli. Forse a Caressa e Company sfugge che l'Inter non era nazionale e che comunque neanche per questo sarebbe accettabile una faziosità come quella che abbiamo dovuto subire. Inutile dire che provando a mettere su Radio 1 servizio pubblico era anche peggio. Gaetano Sciacca da Catania sintetizza tutte e molte altre mail di questo tenore, per una volta più contro Rai più contro Sky che contro Rai, per la verità, anche se non mancano le critiche alle telecronache Rai. Dicevo, Gaetano Sciacca da Catania sintetizza e dice: ma che ne direbbe lei se dopo calciatori e politici il DASPO lo dessimo anche ai telecronisti? Poi ci sono altre analisi tecniche e di commento e di costume, deliziosa quella che spero di trovare il tempo di leggere, di un frate francescano di Padova che si chiama Matteo Martinelli e che in ogni caso saluto con piacere. Angelo, provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, buongiorno. Io avevo chiamato subito dopo la partita Fiorentina-Bayern per dire che il Bayern sarebbe secondo me andato in finale. Ora, io sono un tifosissimo dell'Inter e ieri sera veramente mi sono sentito orgoglioso di essere un tifoso dell'Inter. Mi permetto di sintetizzare la partita di sera con 3 punti. Il primo, Mourinho che va a sfidare, tra virgolette, sfidare il popolo del Barcellona guardandolo negli occhi. Il secondo, la grandissima parata di Giulio Cesare e poi l'intervento difensivo di Eto'o, che secondo me veramente è un giocatore incredibile. Quello che ha fatto in queste 2 partite, un difensore aggiunto, un attaccante del livello suo, è qualcosa che non può che emozionare chi ama lo sport e il calcio in generale. Sono d'accordo, anche se il momento chiave della partita è proprio è il secondo che l'hai individuato, cioè la parata di Julio César su Messi, perché è una parata miracolosa, cioè è una parata che vale 9 da sola ed è quella che impedisce al Barça in superiorità numerica di andare in vantaggio. È chiaro che a quel punto la partita sarebbe cambiata e il Barcellona avrebbe trovato un altro entusiasmo e l'Inter un'altra, come dire, contrazione, cioè un'altra difficoltà psicologica, perché sarebbe già stato sull'orlo del baratro, dove invece ha passato soltanto i 6 minuti più recupero finali, cioè dopo il gol dello 0-1. Un omaggio all'Inter, la voce del capitano Zanetti. Una gioia importantissima, perché da tanti anni che sono qui in questa società e credo che la famiglia interista meritava una sera così. Adesso siamo in finale, manca l'ultimo passo, però non era facile eliminare il Barcellona, l'abbiamo fatto con grande carattere e grande personalità. Manca poco per la finale del campionato, per la Champions, abbiamo una finale di Coppa Italia, cercheremo di fare tutto, sappiamo che è molto difficile, per un passo alla volta. Mai come ieri sera, scrive Massimo da Udine, altra bella analisi, si è avuto l'impressione che il Barcellona non avrebbe mai ribaltato la gara d'andata. E anche questo è una riflessione interessante, comunque che ho condiviso dal decimo minuto del primo tempo. Perché ha giocato dal primo all'ultimo minuto, scrive Massimo Marnico da Udine, all'ultimo minuto allo stesso modo, mai un passaggio filtrante in velocità, fraseggi stretti ma sempre in linea per linee orizzontali, gioco lento e prevedibile. Tutto quello che voleva l'Inter, che è stata brava a imbrigliare trame a centrocampo, ma non c'è stato mai da parte del Barcellona un momento della partita con un cambio di ritmo o una soluzione alternativa al torello, che va bene quando è finalizzato il cambio di velocità improvviso, per creare la vera azione offensiva. Gianpaolo Palimento da Como parla di Messi, scrive di Messi e dice Messi Maradona non paragoniamoli più. Messi è e sarà un grande giocatore, ma Maradona non ha eguali. Messi sta studiando una Maradona, ma è ancora in quarta ginnasio. Questa è molto carina come battuta. È anche un po' generosa perché aveva le sue partite di pausa e i suoi momenti di scarsa forma anche Maradona, intendiamoci. Ma non c'è dubbio che uno segna di più, ma l'altro fosse ben altro leader e ben altro trascinatore. Ripeto, questi paragoni poi si faranno a fine carriera, al massimo per il momento possono essere dei divertissement, non certamente dei verdetti. Vittorio, provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno Garanzini, io mi sono purtroppo collegato con un filo di ritardo e non so se l'ha già fatto qualcuno, complimenti al nostro ministro degli esteri per aver azzeccato le due finaliste paio di mesi fa. E volevo, da tifoso del Milan, fare i complimenti all'Inter e sottolineare il viso di contentezza, di gioia di Moratti, che non mi ha fatto gioire perché questo è impossibile, però mi ha fatto provare piacere perché l'Inter si è andata in finale. Per me aveva un'umanità, un viso stravolto dall'emozione, talmente umano che mi ha fatto quasi gioire per la finale conquistata. Io ho trovato molto bello il fatto che anche in Coppa ieri sera la Spagna abbia adottato la formula dei due presidenti vicini. Quando noi critichiamo giustamente, e mi pare che l'abbiamo fatto, e mi pare che l'abbiate fatto in gran parte anche voi, certi atteggiamenti e il modo in cui il Barcellona ha montato la partita di ieri sera, certamente diciamo una grande verità. Non dimentichiamoci che, nonostante gli eccessi di ieri, il fondo della civiltà del calcio spagnolo rimane sempre un'altra cosa, e basterebbe a dimostrarlo il fatto che i due presidenti loro in campionato siano sempre e immancabilmente seduti di fianco, che è un messaggio forte che noi non possiamo permetterci, perché credo che evidentemente non possiamo permetterci nella ineducazione di fondo del nostro calcio. Io mi schiero con Caressa, scrive un ascoltatore. Posso? Sono l'unico? Al momento sì, caro amico. Matteo da Pavia, buongiorno. Buongiorno, signor dottor Garanzini. Dica. Volevo fare una considerazione veloce sull'Inter, sulla forza dell'Inter, che secondo me, anche se scendendo in campo, magari con gli stessi 11, ha la forza e la capacità di diventare di volta in volta una squadra diversa, di non interpretare la partita e il gioco del calcio sempre nella stessa maniera, ma avendo di fronte un avversario e situazioni diverse, riesce a interpretare una partita diversa e essere una squadra diversa. E poi volevo chiedere una cosa a lei, che ha detto che anche in campo i giocatori del Barcellona sono stati sportivi, ma poi io ho visto delle immagini nelle quali Víctor Valdés prende per il collo anche Mourinho alla fine del match. Beh, insomma, io non ho detto che sono stati sportivi, ho detto che ho visto di peggio, no? Quindi, se permette, c'è una differenza enorme. Valdés alla fine può fare a meno, ma non fa niente di grave comunque contro Mourinho, che fa una sceneggiata delle sue. Ho sentito parlare di molte sceneggiate da parte dei giocatori del Barça. Beh, certamente è una sceneggiata o è una forte accentuazione del danno subito, quella di Busquets, che porta all'espulsione di Thiago Motta. L'arbitro sbaglia per eccesso tirando fuori il cartellino rosso, ma il cartellino giallo c'era tutta la vita, perché Thiago Motta è in possesso di palla, la sta coprendo bene, non ha nessuna ragione di mettere la mano in faccia a un avversario, essendo già ammonito, è un gesto demenziale in una partita del genere a Barcellona, e quindi non vedo il problema. Poi è vero che un paio di giocatori del Barcellona, a cominciare da Messi, in un paio o tre di occasioni anche si sono lasciati cadere, mai in maniera spudorata, ma si sono lasciati cadere. Però io, se le dovessi dire tra andata e ritorno chi è il giocatore che ho visto più lasciarsi cadere in assoluto tra Inter e Barcellona, è Lucio. Tra San Siro e il ritorno credo che Lucio sia riuscito a perdere, non dico molti minuti, ma qualche minutino forse l'ha messo insieme, a forza di restare per terra e di aver subito chissà cosa. Mi risulta strano, no, che tra i due muri formidabili della difesa centrale dell'Inter, Samuel e Lucio, no, uno non cada neanche se gli arriva addosso un tiro, cioè Samuel, e l'altro invece sia sempre per terra e sempre con dei problemi apparentemente inizialmente gravissimi che poi nel giro di 15, 20, 40 secondi a seconda di quello che serve vengono superati. Mario Mantova, buongiorno. Dottore Garanzini, buongiorno. Dica. Innanzitutto il secondo pro Caressa, dato che Materazzi la testa l'ha presa, mentre Busquets ha un pochettino affinto. Però le sottopongo una considerazione sulla partita di ieri sera. Secondo me l'espulsione ha fatto più bene all'Inter che al Barcellona. Intendo dire che dopo un'espulsione ingiusta si sono compattati come spirito di squadra, come gruppo, si sono messi a difendere il bunker e non sono mossi più. Di conseguenza invece il Barcellona si sono messi a giocare sulla tre quarti, a cincischiare, convinti che prima o poi il gol l'avrebbero fatto, poi invece il gol non l'hanno fatto. Poi ormai l'Inter aveva creato un bunker là davanti e questa è stata la chiave, forse una delle chiavi della partita. Sì, sì. Cosa ne pensa? Penso che in 11 sarebbe stato più facile, no? Visto come è stato in 10, penso che in 11 sarebbe stato più facile, e soprattutto non condivido assolutamente l'espressione espulsione ingiusta. Poi prendo un ritaglio di Repubblica di oggi che ho trovato particolarmente infelice. Torniamo in onda, è il momento del ripasso storico con Nicola Filippone. Sembra ieri. 29 aprile 1992. Il sogno europeo del Torino di Mondonico arriva al momento culminante. Nella cornice di un Delle Alpi gremito, i Granata sfidano il temibile Ajax di Van Gaal nella finale di andata di Coppa UEFA. Gli olandesi passano con Jonka al 19°. Il resto accade nella ripresa. Pareggio Granata con il centravanti brasiliano Casagrande al 62°. Nuovo vantaggio dei Lancieri con Peterson su rigore al 75°. E 2-2 finale firmato ancora da Casagrande a 5 minuti dal termine. Al ritorno, il Torino arriverà molto vicino all'impresa, ma non sarà assistito dalla buona sorte. Lo 0-0 finale frutterà all'Ajax la conquista del trofeo. All'Inter di ieri, questo è un messaggio magnifico, firmato Vittorio. All'Inter di ieri dedico un adagio di Gino Veronelli. Dietro ogni bicchiere c'è la fatica del contadino. Non so, forse lei, Vittorio, sa che Gino Veronelli era un grande tifoso. Lui non era un particolarmente appassionato di calcio, però era un interista serio, e quindi mi sembra particolarmente felice questo ricordo di un grande come è stato Gino Veronelli. Massimo, chiamato da Novara, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io sono milanista, però mi ha colpito un aspetto tecnico, volevo un suo parere. Ho visto Eto'o a un certo punto, no, cioè più che altro terzino sinistro, ha giocato sempre durante questa partita, sì. Ma a un certo punto c'è stato un cross proveniente dal lato opposto e lui con un perfetto sincronismo ha fatto due passi in avanti e ha messo in fuori gioco l'attaccante. Ma cioè, non credo che lui si alleni in difesa per avere questo sincronismo con gli altri, è una cosa che mi ha lasciato allibito, volevo sapere un suo parere. Che problema il microfono, scusate, io credo che tutto abbia funzionato ieri sera nell'Inter, tutti i meccanismi, ma torno a dire, i meriti dell'Inter sono innegabili e sono grandissimi, basta aver visto la partita. Non riesco però a scinderli dai demeriti del Barcellona, cioè da questo gioco troppo lento che li ha agevolati. Cioè, io credo che quando giochi contro una squadra così lenta e che arriva sempre in maniera così prevedibile dalle tue parti, dalle parti pericolose, io credo che organizzarsi sia più facile. Poi è chiaro che richiede un enorme sacrificio a tutti singolarmente e e poi collettivamente in un secondo momento, ma però è più facile, ecco. Quindi i meriti sono indiscutibili, i demeriti altrettanto, ed è la ragione per cui alla fine dei 180 minuti, anche se il verdetto è stato poi molto tirato e si è basato anche su alcuni particolari in cronaca su cui si potrebbe discutere all'infinito, il verdetto è meritato, perché delle due squadre l'Inter ha giocato meglio la partita d'andata a San Siro di quanto il Barcellona non sia riuscito a giocare quella di ritorno in casa, nonostante la superiorità numerica. Mi pare che la sintesi finale sia questa. Ci volevano 4 milioni di euro all'anno per inventarsi un capolavoro di tattica, cioè il catenaccio. Viva Amazzone, scrive un ascoltatore. Beh, insomma, io credo che il catenaccio di ieri sera fosse obbligato, non è stata tanto una scelta. Non è stata una scelta, nonostante l'Inter avesse già cominciato a difendersi in superiorità numerica, perché era mancato Pandev. Ti manca un giocatore nel riscaldamento, cambi il modulo ed è chiaro che arretri, no? Istintivamente ti cambia la possibilità di andare a pressare alto su tutte le zone del campo, come l'Inter aveva fatto all'andata. Il catenaccio dopo diventa inevitabile. E comunque, caro lei, 4 milioni di euro sono un terzo di quello che guadagna Mourinho, perché sono almeno 12, e salvo errori o omissioni. Un attimo di pazienza, due ascoltatori, perché queste sono due belle notizie arrivate stamattina che mi pare valga la pena di legare. E cioè, una è che si è riunito nella mattinata il CASMS, famoso, celeberrimo, Comitato Analisi per la Sicurezza Manifestazioni Sportive, per proiettarsi sulle gare a rischio delle prossime giornate. Allora, ci sono restrizioni che non vi sto a dare perché siamo verso la fine, ma ci sono restrizioni comunque per Genoa-Milan, per Napoli-Atalanta, Catania-Juventus, Arezzo-Novara, Rimini-Verona, Como-Lecco e Cosenza-Taranto. Ovviamente non c'è alcuna restrizione per le partite di Roma e Lazio, perché essendosi così ben comportate le tifoserie nell'ultimo derby non si vede perché il CASMS romano dovesse adottare provvedimenti nei confronti di queste tifoserie. Questa è l'Italia. Se vogliamo passare il confine, andiamo in Francia e leggiamo quest'altra notizia di stamane. Il Ministero dell'Interno francese ha disposto con decreto urgente lo scioglimento di 7 gruppi di tifosi organizzati, 5 del Paris Saint-Germain, 1 del Nizza e 1 del Lione, per atti di violenza. La misura, prosegue l'indagine, senza precedenti nella storia del calcio francese, si iscrive in un percorso risoluto di eliminazione dai nostri stadi degli pseudotifosi dal comportamento totalmente insopportabile. Ecco, se vogliamo fare un parallelo tra transalpini, siete liberi di farlo. Tocca a Roberto, provincia di Lodi, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Senta, non so se anche lei condivide la mia vista, dalla mia veduta della partita. Io sono convinto che l'espulsione di Thiago Motta ha portato in un non voluto vantaggio per l'Inter, oppure abbia sciolto i dubbi a Mourinho su come impostare la partita difensiva. No, mi sembra un po' estremizzata. Nel senso che sì, ha orientato ancora di più il gioco dell'Inter. Cioè, dicevo prima, non avendo Pandev, l'Inter poteva avere il dubbio se provarci a segnare sto gol che avrebbe chiuso immediatamente ogni discorso, o se limitarsi a difendersi. Però l'avrebbe fatto in 11, non in 10. È vero, l'espulsione di Motta li ha obbligati a scegliere una via, che alla fine si è rivelata quella vincente. Credo che avrebbero fatto a meno di questo obbligo. Brutta questa notizia che arriva da Milano. Alcuni tifosi la scorsa notte, durante i festeggiamenti per la conquista della finale, hanno imbrattato un tratto delle mura della cattedrale di Piazza Duomo. L'ha reso noto la questura, che riporta la frase, va bene, lascio perdere le frasi perché le frasi di questi idioti non sono mai particolarmente insigni, scritto con uno spray viola su un'area di circa 4 metri lungo le mura che guardano i portici settentrionali di corso Vittorio Emanuele II. Un orribile sfregio alla nostra città, lo ha definito l'assessore all'ambiente del comune di Milano. Samuele da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, Garanzini. Buongiorno. Guardi, io faccio una valutazione tecnica, ho avuto l'opportunità e la fortuna di vedere Inter Barcellona a Milano. Io credo che da un punto di vista tecnico l'aspetto principale sia stato quello dell'ingabbiamento di Messi, la possibilità di annullarlo, e credo che sia altrettanto importante nella non velocità del possesso palla e della pericolosità del possesso palla del Barcellona, per fortuna nostra l'assenza di Iniesta, cioè Iniesta è il giocatore importante anche se talvolta si vede meno. Un'ultima valutazione, e mi spiace perché io apprezzo il calcio spagnolo e il Barcellona, mi è dispiaciuto, non so se qualcun altro l'ha già detto perché mi sono collegato in ritardo, che a fine partita abbiano acceso l'irrigazione. No, l'hanno già detto Samuele, l'hanno già detto e come, ed era giusto, assolutamente giusto farlo notare, perché questa è stata una notevole caduta di stile, non la prima in questi giorni, non la prima, infatti questo è davvero sorprendente, ma quando ieri si diceva che aver troppo caricato la vigilia era sicuramente un segnale di debolezza, ma non dico di debolezza, ma di non totale convinzione, mi pare che ci avessimo preso in pieno per una volta. Grazie a Fabio Cantadori in regia, grazie a Flavio Suardi con Franco Piantanida in redazione. Vi lascio al Giornale Radio.